Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi diamo un ultimo saluto al grande Earl Currington, grandissimo backup center, due volte campione NBA e anche protagonista sui nostri parquet italiani, soprattutto per le fughe. Si è lasciato esattamente ieri all'età di 66 anni. Ciao big man, riposi in pace. Buongiorno a te caro Paolo, benvenuti nuovamente in diretta con il Breakfast Club, ascoltatrici e ascoltatori sportivi e non sportivi. Ne approfitto per salutare anche il nostro Rookie of the Year, Pietro Rossi, che oggi non può essere in diretta con noi, ma è come se lo fosse. Intanto il bello di trovare una linea di conduzione comune, non ho avuto modo e maniera di strutturare il multigruppo odierno con Paolo Onofri, che ringrazio, e chiaramente l'ideare il tema sulla recente scomparsa di Cureton è qualcosa che poi dà il via a tanti motivi di riflessione. Uno, quanti ne stanno partendo, intanto quello che voglio come ogni volta sottolineare. Scompare questo atleta che ha avuto un'importanza non solo per le cronache con la sua clamorosa fuga da Milano, ma è stato anche presente nell'anello dei Philadelphia 76ers. Un giocatore strano, per me, un giocatore che già dall'epoca io sono posto degli interrogativi. Perché è stato scelto da Milano? Non è un ala, non è un centro, non è un realizzatore, non fa canestro in una vasca da bagno, è molto debole dal punto di vista offensivo, non mi sembra un giocatore carismatico, a volte anche un po' svogliato. Beh, guardando le partite già dai primi anni 80, sarà un fenomeno del basket a svelarmi l'importanza di Earl Currington, ma la svela anche Adam Peterson, allora coach dell'Olimpia Milano, impegnata in campionato e anche nella Coppa delle Coppe, la rassegna europea ancora esistente nei primi anni 80. Allora, Mike D'Antoni, anche Dan Peterson aveva qualche dubbio su Earl Currington, e poi durante una partita D'Antoni si avvicina, ricordo D'Antoni per me il più grande playmaker che abbia mai calcato parquet europei, sto parlando di playmaker puri. Beh, si avvicina Dan Peterson, allora D'Antoni non era ancora naturalizzato, era giocatore statunitense come Earl Currington, era la possibilità di due giocatori. Durante una partita, beh, ho elencato delle caratteristiche non proprio molto specchiate di Currington, no, per quanto riguarda quel basket tecnico che a me piace. D'Antoni si avvicina a Peterson e dice: "Ehi coach, hai notato? Non arriva la palla sotto agli avversari, non riescono nella circolazione di palla che è completamente bloccata nel dialogo tra gli esterni che non riescono a dare la palla sotto." Perché? Perché Currington è veramente un grillo, cioè lui atleticamente ha una reattività incredibile, copre tutti gli spazi nella painted zone, è impossibile servire il lungo o i lunghi dal post o dal pivot, lui è costantemente in anticipo, tutte le palle vaganti sono le sue, presente a rimbalzo e soprattutto la capacità di impedire, di negare questa comunicazione tra gli esterni e i giocatori di stazza sotto canestro, che ovviamente caratteristica importante per una pallacanestro importante, protagonista nelle puntate del Mute Groove. Ecco, probabilmente abbiamo parlato tanto di specificità, l'importanza di avere Earl Currington era proprio questa: bloccare completamente la comunicazione tra gli esterni e la painted zone più vicino a canestro. Risultato? gioca 6 partite nell'Olimpia Milano nell'83, tra 83, 82, 83. Adesso guarderò per bene tutti i dati perché per quanto riguarda le annate posso anche fare confusione. Gioca 6 partite vinte. Fenomeno dei rimpianti, il rimorso, il ricordo sono tematiche assolutamente sempre e comunque tra filosofia e parquet presenti con D'Antoni, che ricorda la capacità di questo giocatore in un aspetto difensivo di essere determinante sia in una difesa collettiva che in una difesa individuale. Beh, tutto ciò è stato importante anche nella NBA, come giustamente ha ricordato Paolo Onofri, ha avuto un ruolo da backup proprio per questo aspetto unico, cioè di dare negazione alla circolazione di palla tra gli esterni e gli interni. 6 partite prima della sua fuga, 6 vittorie per l'Olimpia Milano. Poi che succede? Anticipava, poi recuperava, poi su un fianco e poi sull'altro. Palla recuperata, apertura, contropiede, veloce, e nessuno capiva più dove si sarebbe fatto trovare. Smisero di passare completamente la palla dentro. Sì, in attacco qualche canestro, ma non tanti. E Milano con lui sembra imbattibile. Non so se avremmo mai perso, aggiunge Dan Peterson. Il resto è storia, leggenda e tutto. Una mattina Eric Hureton sale su un taxi e scappa alla Malpensa. E avvertito dal portiere dello stabile in cui abitava, Peterson cercò di fermarlo. Era sabato e salì su un taxi per seguirlo. Era vero? Non era vero? È una leggenda anche questa, per enfatizzare ulteriormente una delle fughe più clamorose dall'Italia. Non si sa, ma la decisione era stata presa. Hureton sarebbe tornato negli Stati Uniti d'America. Poteva farlo perché la NBA, completamente slegata dalla FIBA, dal resto del mondo, non metteva certo impedimenti a chi decideva di lasciare. Sì, ci rimetteva il contratto con l'Italia, ma non aveva lacci o lacciuoli per il rientro nella NBA. E così fu, perché i Detroit Pistons vollero assolutamente un giocatore come Hureton nel loro roster. Beh, quello che poi sarà, come ben sappiamo, è che Milano andò in difficoltà, per non parlare dell'Europa, la famosa Coppa delle Coppe, dove non si poteva sostituire il taglio o la sostituzione valeva per il campionato italiano, le regole lo impedivano nelle competizioni europee. Vi faccio un esempio: il famoso Banco Roma di Larry Bright tagliò Clarence Key per prendere un giocatore fortissimo come Darrell Lockhart, ok, ma avremo modo in altre puntate magari di parlare di Darrell Lockhart. Ma Clarence Key, che oltre a essere essere un grande giocatore, era anche una grande persona, disse: ok, mi avete tagliato, non c'è problema, non potete tagliarmi in Europa, io non faccio il dispetto di non giocare in Europa e se volete vi do una mano. E che mano ha portato Clarence Key al Banco Roma, che con Larry Bright diventerà campione e porterà la Coppa dei Campioni con Valerio Bianchini come coach nella capitale. Non è stato poi così un lungo addio, perché più tardi Earl Cureton, come per risarcire e lo stesso tempo Milano accettò, giocò 9 partite mi pare al termine degli anni 80 sempre per Milano, ma ok, ben accetto il ritorno nonostante la fuga, ma non era più Earl Cureton, anche perché il suo gioco era unicamente fisico. L'anno della finale scudetto contro la Virtus Bologna, sì, quella che diede alla squadra di Bologna appunto la decima stella, Cureton fu sostituito da Antoine Carr per Milano, buono come il pane, giocatore incompreso, ma questa è un'altra storia a parte. Molti addetti ai lavori attribuiscono la non vittoria di Milano del campionato appunto per la fuga di Cureton, che era un grandissimo difensore, a discapito di un Antoine Carr molto più realizzatore e uomo offensivo. Secondo me c'erano altri problemi, ma è una mia idea, la poi lasciamo stare, ma si dicono queste cose qua oggi come oggi. Che fu Mike D'Antoni ad accompagnarla all'aeroporto, io mi ricordavo così, con Peterson all'inseguimento in macchina. Ovviamente questi fatti poi vengono smentiti, si dice sì, è una leggenda, insomma, così ci sono alcuni, anche in questo caso gialli, nei percorsi di fuga. No, non ho la sicurezza, è sempre il rimpianto e il ricordo, vedete che torna poi per quanto riguarda questo fenomeno dei rimpianti. E non si può dire, secondo me, se ci fosse stato Cureton, se avesse saputo del Daddy Quayon, diceva mia nonna, non c'è bisogno di traduzione, se avessi e se fossi è il modo di interpretare le cose per gli incapaci, ecco, detto in maniera molto draconiana, se vogliamo, non sono esattamente d'accordo, però il detto popolare porta a questa tra virgolette saggezza, se avessi e se fosse il Daddy Quayon. Meglio avere rimpianti o rimorsi, meglio portare i ricordi, meglio guardare avanti o esserne ancora legati. Sì, certamente mantenere un piede nei ricordi per me è indubbiamente motivo per darsi la spinta in avanti, per cui no, basta, taglio col passato, guardo solo in avanti. È il lento adagio che sentiamo, ma secondo me non si guarda avanti se non teniamo un piede anche saldo in quello che è stato. Rimorso e rimpianto per quel campionato che tra l'altro ha portato a una grandissima Virtus in Udine lo scudetto. Non si parlava di gara 1, gara 2, gara 3, gara 4, quello era una modalità di competizione nei playoff della NBA, si giocava andata e ritorno e la Virtus vincerà lo scudetto a Milano nella partita definita la bella. Ecco piuttosto come rimpianto è la competizione europea, quello sì, perché Milano senza Cureton perse la Coppa delle Coppe di un punto contro il Real Madrid e non poteva sostituirlo con un altro americano o con un altro atleta, Quindi, ecco, in questo caso mi permetto che la fuga abbia inciso di più. Per quanto riguarda il discorso Virtus in Udine, primo anno di sponsorizzazione Granarolo Felsine, nascita ufficiale da quell'episodio di Basket City, la Virtus arriva alla Stella, quello è lo scudetto della Stella. Milano con un giovane chiamato Cucciolone, il Cucciolone è diventato Big Dog, la NBA, e ha portato veramente grande classe e canestri, un approccio completamente diverso a Cureton. Posso dire, io tra Cureton e Carr non ci penso neanche un decimo di secondo. Arriva in Italia a 21 anni per rimettersi da un infortunio, sarebbe stato una scelta per la stagione successiva, hanno appunto aggiunto dall'NBA, mi raccomando andiamoci piano, è una prima scelta da Wichita State, arriverà in Italia giocando a Zoppo Galletto e farà la differenza con grande professionalità, lui non si risparmia un attimo, nonostante la giovane età dimostra subito una grande maturità, è un giocatore completo e bravo sia fronte che spalle a canestro, può giocare tre ruoli e lo fa con grandissima classe, una mano morbida, movimenti veramente che lasciano d'incanto lo spettatore attento, capacità atletica, rimbalzo, certamente non un giocatore particolarmente attento in difesa, ma per quanto riguarda l'aspetto di realizzazione, l'aspetto di concretezza offensiva, anche l'estetica se vogliamo, beh, sarà uno degli atleti che anche nella NBA farà diverse stagioni in doppia cifra. Anzi, ammetto che per mio modesto parere, e condivido le parole di Paolo Onofri, Antoine Carr è stato uno degli atleti più sottovalutati in assoluto. assoluto nella NBA. Ricordiamo ottime stagioni ad Atlanta, ricordiamo ottime stagioni negli Utah Jazz. Breve, andiamo in pubblicità. La colpa ai fattori esterni, all'episodio della fuga, al rimpianto, al rimorso di non aver portato un successo sia in Coppa delle Coppe che in campionato, e quante volte tutto ciò viene poi traslato nella vita, quanto abbiamo l'abitudine di portare responsabilità a un fattore esterno nei nostri percorsi di quotidianità, quanto abbiamo motivo di rimpianto e per non aver fatto, quanto abbiamo motivo di rimorso. Quel campionato di Milano rappresenta un pochettino queste sensazioni che dal parquet vanno traslate nelle nostre vite. E nel Dream Team Celeste ci sarà un grande giocatore reattivo, un grande atleta dalle capacità difensive veramente naturali e spiccate. Una carriera lunga anche in NBA, da Detroit, poi ha avuto modo di giocare, pensate, ma sapete che basta la presenza in una partita che ti vale per aver vinto l'anello. L'anello di Houston, ecco, quella fu l'ultima stagione di Cureton e giocò due partite a Houston nell'anno dell'anello nella squadra texana. Il suo anello importante ovviamente fu nei mitici Sixers di Julius Irving, Moses Malone, Maurice Cheeks, anche Mark Iavaroni, aggiungiamo anche questo paesà nello starting five perché Bobby Jones giocava da sesto uomo, coach Billy Cunningham, Andrew Toney, the Boston Strangler, Moses Malone, insomma una delle squadre più forti di tutti i tempi. E per aggiungere e arrivare dalla panchina per momenti di qualità e grande difesa anche Earl Cureton, che possa riposare in pace. Termina qui questa prima parte di Mood Groove. A breve, dopo la pubblicità, si torna in diretta per questa nostra giornata di martedì 6 febbraio. A tra poco. get back at all. Trying hard to stay alive, you got me dangling on your string, pulling every which way. All I can do is sing, all I can do is pray. You got me backed up against the wall, can't step back at all, Lord. Got me backed up against the wall, can't step back at all, back up against the wall. Got me dangling on your string. Think you're gonna make me go your way. All I'm gonna do is sing. All I'm gonna do is pray. You got me backed up against the wall. Can't step back at all, no. Got me backed up against the wall. Can't step back at all. Autobus che passano una volta sola e non ce ne accorgiamo. Ci sono degli autobus che appunto passando raramente non aprono nemmeno la portiera per farci salire, altri che li snobbiamo tanto ripassa. Non è mica detto, È un po' la storia dell'Olimpia Milano di inizio anni 80 per quanto riguarda le due finali perse con dei contenuti diversi in Italia e in Europa. Il Multigroup di oggi, un riferimento anche a percorsi di vita tra ricordo, rimorso e rimpianto. Puriton fu una scelta non certo nei primi giri, anzi al terzo giro. Viene dal Michigan, è scelto col numero 14, ma numero assoluto 58. Però vi posso dire, fu scelto prima lui di Bill Laimbeer, per dire alcune caratteristiche, particolarità di quel draft. Una su tutte, come particolarità, nel 1979 la prima scelta fu un tale Ervin Magic Johnson. Every morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Every evening, find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Cares and woes have got me moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone in my grief. Mentre invece ce ne sono finché volete, e se lo volete, questa sera ci sarà l'incontro di presentazione in Sala Borsa per la mostra Pinocchio Burattino Tutti i Tempi, centro di ricerca al Pioniere con Radio Città Fujiko in Sala Borsa, quindi in pieno centro, e per quello che ho detto di autobus ce ne sono a bizzeffe, la possibilità di vivere, di percorrere e soprattutto tutto di ammirare oltre 100 tavole d'artista. La presentazione sarà alle ore 18 questa sera in sala borsa, nella sala delle conferenze. Qui potete aspettare anche l'autobus dopo, ma mi raccomando, è alle ore 18, sala borsa. Alcune caratteristiche di quei Philadelphia 76ers. In effetti Cureton era un centro atipico, anche se giocava da backup. Il centro era Moses Malone, un titano della pallacanestro, della grande pallacanestro. Divideva il ruolo di backup con un giocatore per me fortissimo. Lui in Italia ha dovuto fare un po', che è arrivato in tarda età, un po' che giustamente ha dovuto mettersi a disposizione. Era tale Clemon Johnson, che lo conosciamo molto bene a Bologna. Per me un centro fortissimo, a fianco di Sugar Ray Richardson, una coppia per la Virtus Bologna molto molto incisiva. In quei Philadelphia anche JJ Anderson, che abbiamo già presentato, e colgo l'occasione per ricordarlo se all'ascolto, a Pietro Rossi, JJ Mitchell Kate, JJ Anderson arriverà poi in forze a Firenze in Italia. E chiudo con Milano, perché come abbiamo fatto con Tom Boswell, seppur con caratteristiche diverse, ha delle attinenze con Earl Cureton per una carriera fugace e contraddittoria. Certo, Tom Boswell a risultato è andato, mentre invece Earl Cureton è ritornato negli Stati Uniti d'America. Però sono quelle figure importanti ma contraddittorie. Allora, all'interno di questo roster vedo uno degli americani, non solo per Milano, è stato anche a Bologna, dove è andato a risultato. Adesso non ricordo esattamente il suo palmarès, lo andremo a trovare a breve. Lui per me un tutti i tempi. Stiamo parlando di Rachel Cheney. Allora, si dice poi di atleti magari che non ricordiamo, potremmo fare una puntata su questi USA dimenticati ma fenomenali. Beh, indubbiamente uno di questi è Rachel Cheney. Arriva in Italia insieme a un certo Wally Walker, con un pedigree di tutto rispetto, verrà immediatamente tagliato anche in questo caso da Milano. Arriverà Joe Barry Carroll, ne abbiamo già parlato, Joe Barry Carroll e Rachel Cheney assieme non hanno più perso una partita, hanno vinto campionato, hanno vinto ovunque. Beh, per quanto riguarda Cheney, allora, sentite un po', ha vinto 3 campionati in Italia, 2 con Milano, 84-85, 85-86, 1 con Bologna, 93-94, 2 Coppe Italia, una con Milano nell'86, e nel 91 porta la Coppa Italia alla Glaxo Verona. Concludiamo Coppa Korać 1984-1985. Beh, buono come il pane e soprattutto vincente. di rotazione per 3 anni in quei Seattle Supersonic, sì, tagliati McDaniel, Dale Ellis e Tom Chambers. Dunque andava sempre giocato perché era veramente buono. Oro 24 carati, il brano che stiamo ascoltando è portato da questa formazione, anche se un oro a 24 carati nero, 24 carat black. Termina qui il nostro Move to Groove odierno con il saluto a Earl Cureton, soprannominato la piroetta, proprio per questa capacità nella sua motilità incredibile in fase difensiva, aiuto, recupero, palle vaganti, rimbalzi. Un giocatore importante, un giocatore seppur da backup presente in NBA, poteva avere un percorso anche in Italia, ha fatto altre scelte. Ci lascia di recente Earl Cureton, va nel parquet celeste, che possa riposare in pace. Potremmo ogni tanto portare in rassegna questi atleti contraddittori, o per motivi di fuga, o per motivi disciplinari, o per motivi di infortunio, o di scelte sbagliate, sempre per quello che è il parallelismo tra parquet e filosofia, tanto più che Earl Cureton viene definito in un articolo molto bello di Ricordo, il fenomeno dei rimpianti. Ricordo ancora la presentazione in sala conferenze, in sala borsa, questa sera alle ore 18 per Pinocchio, questo burattino tutti i tempi, 100 tavole d'autore, la presentazione ufficiale questa sera, martedì 6 febbraio, poi il via appunto all'esposizione, e avrete modo di portare anche voi un'attenzione non solo estetica ma anche storica ed emotiva al contenuto, al famoso burattino di Collodi. Io vi do appuntamento a domani, già mercoledì, con il Voltiamo Pagina. Grazie intanto per aver fatto colazione con il Breakfast Club anche per quest'oggi. A breve avremo l'Edipeo Enciclopedico, Liberi Dentro ci accompagna in rassegna stampa fino alle ore 10:30 per lasciare il microfono al Vinile Quotidiano. Mi raccomando, è Vinile Quotidiano, curato e condotto da Andrea Gozza. Ecco la mattinata sui 103.1 per questo martedì 6 febbraio. Ciao a tutte, ciao a tutti, con un caloroso abbraccio mi congedo a voi dal vostro William Piana. Un buon ascolto e una buona giornata. A domani, ore 7, Breakfast Club. Ciao!